Perché Fantasia muore? Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga. Che cos'è questo nulla? È il vuoto che ci circonda. È la disperazione che distrugge il mondo. Valoroso guerriero, combatti il nulla allora. Come faccio? Scendi in strada in difesa di XM24 e dell'autogestione. Contro il nulla che avanza. Sabato 29 giugno, ore 16, piazza 20 settembre, Bologna.